Il piacere è sacro. Il mito del sesso come purificazione di Riane Eisler, edizione Frassinelli. Parte prima. Come siamo finiti qui? 1. Dal rituale all'amore romantico, sessualità, spiritualità e società. Candele, musica, fiori e vino. Di questo lo sappiamo bene, sono fatti l'amore romantico, il sesso, l'amore. Ma candele, fiori, musica e vino sono pure la materia di cui sono fatti il rituale religioso, i nostri riti più sacri. Da dove viene questa comunanza sorprendente, seppur raramente notata? È un semplice caso che la parola passione venga usata sia per l'esperienza sessuale sia per l'esperienza mistica. O esiste una connessione da tempo accantonata ma tuttora assai forte? Non può essere che il desiderio di tante donne e di tanti uomini per un sesso inteso come qualcosa di bello e di magico corrisponda al nostro impulso, lungamente represso, verso un mondo più spirituale ma anche più intenso e appassionato di esprimere il sesso e l'amore? Siccome ci hanno insegnato a pensare al sesso come a qualcosa di peccaminoso, sporco, solleticante o lascivo, la possibilità che il sesso sia spirituale e addirittura sacro può apparire scandalosa. E ancor più singolare, in un mondo in cui i genitali femminili vengono talvolta riassunti nel termine fica, alquanto volgare, è l'idea che il corpo delle donne, in particolare la vagina, possano essere sacri. Eppure esistono prove inconfutabili che per molte migliaia di anni, per un tempo molto più lungo dei 30-50 secoli di storia documentata, le cose stavano proprio così. Nelle tradizioni che risalgono all'alba della civilizzazione, la vulva femminile era venerata come magica porta della vita, dotata del potere della rigenerazione fisica, dell'illuminazione e trasformazione spirituale. Ben lungi dall'essere considerato una sporca fica al triangolo pubico, era la manifestazione sacra del potere sessuale creativo e ben lungi dall'essere di ordine inferiore, vile o carnale, era un simbolo primario della potente figura nota nella successiva storia occidentale come la grande dea, la fonte divina di vita, piacere e amore. Antichi simboli sessuali. Nel sud della Francia, dove sono state rinvenute antichissime testimonianze artistiche, molte sono le immagini della sacra vulva. Alcune, che si trovano nelle grotte sacre nei pressi di Lézié, in Dordogna, risalgono a 30.000 anni fa. Come fanno rilevare gli archeologi, la grotta era il simbolo del ventre della Grande Madre. L'entrata era pertanto un simbolo della porta sacra o apertura vaginale. Questa associazione della vulva e del ventre divini con la nascita, la morte e la rigenerazione è uno dei principali temi mitici nell'arte preistorica. Probabilmente risale al Paleolitico, l'inizio dell'età della pietra, è chiaramente presente nel Neolitico, quando ebbe inizio l'agricoltura, e in varie forme ancora sopravvive nell'età del bronzo e anche in epoche storiche più tarde. Numerose sculture, fra quelle che gli archeologi chiamano figurine di Venere o della Dea, ma anche altri oggetti cerimoniali emersi dagli scavi, hanno vulve fortemente accentuate. Siccome l'arte preistorica si occupa prevalentemente di miti e rituali, è indubbio che queste vulve hanno un significato religioso. Per esempio, nella comunità neolitica di Lepenskivir, in una regione settentrionale dell'ex Jugoslavia, furono ritrovate 54 sculture in arenaria rossa, intagliate in massi ovali collocati attorno ad altari a forma di vulve di utero, in santuari che avevano anch'essi la forma del triangolo pubico. Alcune di queste sculture, che risalgono a oltre 8.000 anni fa, presentano incise il volto della dea e decorazioni a forma di V che indicano la vagina sacra. Similmente, un gruppo di figurine ritrovate in Moldavia, nella Romania nordorientale, risalenti a circa 7.000 anni fa, mostrano triangoli pubici molto stilizzati, con decorazioni a forma di V. Una dea di 6.000 anni ritrovata in Bulgaria, la signora di Pazersik, in trono, tiene le braccia ripiegate sulla sua vulva incisa in rilievo. Il suo triangolo sacro è ornato da una doppia spirale, un antico simbolo di rigenerazione. Simile in modo stupefacente è una dea giapponese, una figurina fittile, Homon, pressappoco della stessa epoca, con doppie spirali sul busto e un triangolo pubico capovolto fortemente stilizzato. Su di un piatto rinvenuto nelle Cicladi, che risale a circa 4.500 anni or sono, una vulva molto stilizzata e fiancheggiata da rami, sotto un gran numero di spirali, in quel che pare un mare spiraliforme. In altre località la vulva è rappresentata da simboli presi dalla natura, come il bocciolo di un fiore o una conchiglia di ciprea. In effetti le cipree ritrovate fra gli scheletri, che risalgono a oltre 20.000 anni fa, indicano che la pratica di porre queste conchiglie nelle sepolture, come simboli del potere femminile rigeneratore, risale alla più remota antichità. Gli antichi egizi spesso decoravano i sarcofagi con conchiglie di ciprea e persino ai tempi dell'impero romano essi venivano ancora considerati un potente simbolo di rigenerazione e illuminazione. Nell'antica tradizione religiosa indiana, il triangolo pubico femminile era considerato il centro dell'energia divina. Tuttora, nello yoga tantrico, è associato a Kundalini, l'insieme delle energie inconsce che, se risvegliate attraverso i piaceri del sesso, invadono tutto il corpo, apportando uno stato di beatitudine statica. Il culto indiano della vulva divina, che in talune località tuttora persiste, è graficamente illustrato da una scultura indiana relativamente recente. Un rilievo del XX secolo scolpito sulle pareti di un tempio della dea nell'India meridionale, che rappresenta due santoni con le mani levate in preghiera, seduti ai piedi di una vulva gigantesca. Altri elementi indicano che anche il fallo maschile era nell'antichità oggetto di venerazione, sebbene le prove siano più rilevanti a partire dall'età del bronzo. Le immagini falliche, in particolare le rappresentazioni dell'unione del fallo con la vagina, si ritrovano già nel Paleolitico e ricordano ampiamente le sacre immagini Lingam Yoni che tuttora si ritrovano in India. Chiamarono inizialmente Baton de Commandement, mazza di comando, ma che a un più attento esame si rivelò un fallo allungato e molto stilizzato poggiante su una vagina. Uno degli aspetti più interessanti di questo antico ritrovamento è che, come altri manufatti del Paleolitico, presenta una serie di tacche e solo ora si è capito che stanno ad indicare le fasi lunari, tanto che Alexander Marshak ha ipotizzato un riferimento al mito della mestruazione o della gravidanza, o a un rito connesso all'una o all'altra. Negli scavi condotti a Savignano e sul lago Trasimeno, gli archeologi hanno rinvenuto sculture che mostrano, come scrive l'archeologa Maria Gimbutas, una fusione del fallo con il corpo divino della dea. Sempre in Italia, nei pressi di Trento, nella grotta di Gaban, fu ritrovata una scultura che fa pensare sia a un fallo sia a una figurina della dea estremamente stilizzata. Come rafforzare il nesso sacro fra sessualità femminile e maschile, questa scultura presenta un'incisione. Un paio di corna a mezzaluna simboleggiano il principio maschile, mentre la vulva è rappresentata da un fiore. Uno degli esempi più belli di questa tradizione artistica che raffigura il sesso come sacro ci giunge dalla Mesopotamia. È una piastra in terracotta, identificata come amanti che si abbracciano sul letto. Si tratta probabilmente della dea Inanna e del dio Dumuzi nell'atto di consumare la loro sacra unione. Fu modellata circa 4.000 anni fa e, come molte figurine di dee del Neolitico, delinea chiaramente, anzi accentua, il sacro triangolo pubico. Vecchie e nuove realtà sessuali. Queste antiche immagini sessuali chiaramente nulla hanno a che fare con ciò che oggi chiamiamo pornografia, termine di derivazione greca che significa letteralmente rappresentazione di prostitute. Effettivamente il contrasto fra questi due tipi di immagini sessuali è talmente forte che si paiono venire da due diversi pianeti. Sebbene le immagini pornografiche di cui ai giorni nostri rigurgitano libri, riviste, film e videocassette si concentrino su vagine, falli e rapporti sessuali, i genitali femminili non sono affatto venerati in quanto sacri, ma piuttosto considerati osceni. E invece di essere associato con una divinità femminile, il sesso pornografico è spesso legato alla violenza, e alla coercizione dominatrice del maschio e alla sottomissione e alla degradazione della femmina. Per la verità, il modo in cui il sesso viene di solito rappresentato nella pornografia non è nemmeno erotico, nel senso di eros come dio dell'amore sessuale. Perché nella pornografia il sesso non è affatto associato all'amore e neppure all'attenzione. Al contrario, le immagini e le storie pornografiche esprimono spesso disprezzo per le donne e talvolta persino un odio feroce. Per esempio, una copertina della rivista pornografica a forte tiratura, Hustler, presentava l'immagine di un uomo che infilava un coltello a serramanico nella vagina di una donna, con questa divertente didascalia, i preliminari. Un servizio artistico su Penthouse mostrava delle donne nude penzolanti da alberi, qui erano assicurate con ganci, come pezzi di carne in macelleria. Sullo stesso filone, un altro numero di Hustler usava per la copertina un'immagine che è ora diventata un classico, una donna nuda testa in giù, con le gambe e la parte inferiore del busto intatti, mentre il resto del corpo usciva come un hamburger da un tritacarne. Ovviamente le immagini pornografiche non sono che una delle espressioni di come la nostra società considera il corpo femminile e il corpo maschile e di come concettualizza il sesso. Come vedremo nella parte seconda del libro, ce ne sono molte altre, dai comandamenti religiosi volti al controllo dei comportamenti sessuali e perfino dei pensieri, alle più generali allusioni sessuali che si ritrovano in film, programmi televisivi, libri e articoli su come le donne e gli uomini si comportano nei rapporti in cui è presente il sesso. Ma la pornografia è l'espressione più esplicita, poiché mostra la nudità e l'atto del coito che altrove è tabù. Ed è anche il modo più esplicito per esprimere le convinzioni e le pratiche culturali in cui il sesso è più un fare la guerra che un fare l'amore. Perché vi troviamo, accanto al tema generale delle donne, talvolta delle ragazzine, ridotte a meri oggetti sessuali per il maschio, donne in catene, donne umiliate, degradate, picchiate, torturate e perfino uccise. Inoltre, come dimostrano i famigerati film snuff, durante la cui lavorazione si è venuto a sapere che alcune donne furono uccise per davvero, non è soltanto nelle riviste, nei film e nei video pornografici visti da milioni di uomini e ragazzi che la nostra società collega il sesso alla degradazione, all'umiliazione, alla dominazione, alla tortura e perfino all'uccisione di donne. Sebbene ciò sia qualcosa con cui molti di noi preferirebbero non doversi confrontare, tutto ciò non accade soltanto sulle pagine di una rivista o sullo schermo di un cinema o di un televisore. Troppo spesso accade anche nella vita reale. Sarà sufficiente dare un'occhiata ai sinistri resoconti proposti dalla stampa sugli omicidi a sfondo sessuale in serie per verificare che l'uccisione di donne per motivi sessuali non è confinata al regno della fantasia. Un recente articolo di giornale raccontava di una giovane donna ridotta in catene in uno scatolone di legno da un uomo che l'aveva rapita nel parcheggio di un supermercato e l'aveva tenuta come sua schiava sessuale per oltre 2 anni. Questo sarà anche un caso insolito. Ma la schiavizzazione di migliaia di donne e ragazze nei casini e nei bordelli militari di tutto il mondo non lo è affatto. È stata ampiamente documentata da innumerevoli rapporti dell'Interpol e dell'UNESCO, sebbene resti ampiamente impunita, a dispetto della Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui stilata nel 1949. Le percosse inferte alle donne da uomini con cui fanno del sesso è pure ben lungi dall'essere un fatto insolito, come tragicamente provano negli Stati Uniti le molte migliaia di donne che hanno paura di lasciare uomini che le picchiano a sangue perché questi minacciano di ucciderle. Anche le percosse sono un crimine che resta ampiamente impunito o punito con sentenze ben più lievi che nel caso di percosse a estranei. Quanto ad altre forme di violenza e dominazione sessuale, l'FBI valuta che negli Stati Uniti ogni 6 minuti viene violentata una donna e un recente studio del US Bureau of Statistics indica che in alcuni stati più della metà delle vittime è costituita da ragazze al di sotto dei 18 anni. Secondo una stima, in America ogni anno 250.000 minori, per lo più bambine, subiscono molestie sessuali in casa, per lo più da parte dei loro familiari maschi. In In altre nazioni che stanno ora cominciando a redare statistiche simili e in cui le donne cominciano a denunciare i crimini legati al sesso, il quadro che emerge è altrettanto sinistro. Per esempio, in Malesia, il 49% circa dei casi di stupro riferiti nel 1985 riguardava minori di meno di 15 anni e nella maggior parte dei casi, 67,8%, a commetterli erano padri, patrigni e fratelli. E in altre parti del mondo in cui non esistono praticamente statistiche su questo aspetto fondamentale dell'esistenza quotidiana, come nella maggior parte dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, altri indici segnalano la diffusione della violenza sessuale contro ragazze e donne. Per la verità, sotto parecchi aspetti, la situazione potrebbe essere ancora peggiore che in Occidente. Una pratica orribile che secondo le stime colpisce oltre 100 milioni di donne e bambine in regioni dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente è la mutilazione genitale. A differenza delle circoncisioni maschili con cui questa pratica è talvolta erroneamente equiparata, è ben diversa dalla recisione cerimoniale del prepuzio. Consiste nella recisione della clitoride o di parte di essa, eseguita allo scopo di privare la donna del piacere sessuale e quindi, presumibilmente, del desiderio di deviare e/o nella recisione delle grandi labbra e nella cucitura dell'orifizio vaginale, il che rende impossibili i rapporti sessuali finché non viene riaperto prima del matrimonio. E questa violenza sessuale è terribilmente dolorosa, che provoca non soltanto un gravissimo trauma fisico, da gravi infezioni alla morte, ma anche danni psicologici incalcolabili, resta talvolta giustificata ai giorni nostri in quanto tradizione etnica, o viene addirittura esaltata quale rito religioso moralmente necessario per controllare la sessualità delle donne. In Iran e in altre nazioni in cui predomina il fondamentalismo islamico, paesi in cui la purezza sessuale delle donne è un tema religioso preminente, le giovani condannate a morte vengono sistematicamente violentate prima di essere giustiziate. E nonostante questa pratica sia giustificata e considerata morale, in quanto per la legge islamica una vergine non può essere messa a morte, come vedremo in seguito, scaturisce in realtà da preoccupazioni di natura economica. Una vergine è una preziosa proprietà maschile e perciò non va distrutta. Ora però vorrei fare una precisazione fondamentale per comprendere e cambiare i miti e realtà sessuali assai brutali. In Medio Oriente, come in Africa, in Asia, come negli Stati Uniti, dobbiamo andare oltre le differenze geografiche, etniche e religiose. La questione fondamentale non è se una cultura è orientale o occidentale, industriale o preindustriale, laica o religiosa, settentrionale o meridionale. La questione fondamentale è la misura in cui una cultura o una subcultura si orienta prevalentemente verso l'una o l'altra delle due fondamentali alternative aperte all'organizzazione sociale e sessuale, come si diceva nell'introduzione, il modello della dominanza o il modello della partnership. Da questo punto di vista, non è un caso se nelle antiche società a predominio maschile, fortemente autoritarie e cronicamente bellicose, che esamineremo nei capitoli 5 e 6, il delitto d'onore, cioè l'uccisione della moglie e talvolta della figlia, della sorella e perfino della madre, per qualsiasi tipo di indipendenza sessuale, reale o sospetta, era socialmente perdonato e lo è ancora in alcune culture autocratiche, cronicamente violente e rigidamente dominate dal maschio del Medio Oriente e dell'America Latina. Si tratta infatti di società fortemente orientate sul modello della dominanza. E non è nemmeno un caso se quelle parti del mondo in cui oggi assistiamo al più forte movimento verso la partnership, laddove la gente mette in discussione apertamente il predominio maschile, la guerra e i controlli autoritari all'interno della famiglia e dello Stato sono anche i luoghi in cui la violenza sessuale comincia a essere apertamente ricusata e condannata. E non è casuale che le immagini preistoriche del corpo femminile e ancor più specificamente della sessualità femminile ci trasmettano il rispetto per la vita e per il piacere, piuttosto che l'ossessione della dominazione e del dolore. Perché il fatto che la sessualità fosse un tempo associata al sacro, piuttosto che al sordido, al brutale e nel senso vero del termine all'osceno, non accadeva in un vuoto assoluto. Come vedremo, si realizzò in società in cui donne e uomini vivevano in stato di maggiore uguaglianza, in società in genere più giuste e pacifiche, in cui il potere supremo dell'universo era ancora considerato il potere di dare, di nutrire e illuminare la vita e non il potere di dominare e di distruggere. Questo non significa che era una società totalmente libera dalla violenza, dal dolore e dalla distruzione, così come non si vuole affermare affatto che se riusciremo a spostarci verso un mondo più orientato sulla partnership, non si daranno mai più atti di violenza sessuale o di altra natura. Ma un conto è riconoscere il lato distruttivo della natura e di noi stessi e il fatto che talvolta le persone sono violente e prevaricatrici. E un altro è organizzare la società in modo che, allo scopo di conservare rigide dominazioni gerarchiche, la violenza e la prevaricazione vengano istituzionalizzate e, come nel caso della violenza maschile, impunita nelle guerre e nella guerra dei sessi, connesse a processi di socializzazione specifici di genere. Il che a sua volta mi porta a un'importantissima questione che desidero sottolineare in questo capitolo programmatico. Qui non ci occupiamo della questione delle caratteristiche innate maschili e femminili e dei rispettivi comportamenti, così come non ci riguarda la questione degli uomini contro le donne o delle donne contro gli uomini. Ovviamente furono donne e uomini a creare nelle società preistoriche immagini sacre della sessualità femminile e maschile. Ci sono ai giorni nostri uomini che rifiutano gli stereotipi maschili, secondo cui la virilità consiste nel dominare il sesso opposto, così come esistono donne che lottano per liberarsi dagli stereotipi femminili di una sessualità passiva o masochista. Ma al contempo ci sono ancora uomini fissati sul punteggio, ovvero il sesso è inteso come una sorta di Nintendo in cui si vince o si perde, e donne per le quali l'idea di considerare sacro il proprio corpo è talmente contraria a tutto quanto è stato loro insegnato sulla sessualità da parlir loro sacrilega. Chiaramente, differenze così marcate negli atteggiamenti e nei comportamenti sessuali degli uomini e delle donne sono incompatibili con i concetti tuttora prevalenti di una sessualità femminile e maschile fissa e immutabile, ma sono coerenti con i ruoli maschili e femminili, che vanno di pari passo con due modi assai diversi di costruire i rapporti sociali e sessuali. Uno accentua la dominanza, la paura e il dolore, l'altro la fiducia reciproca, la partnership e il piacere. La costruzione sociale del sesso. Il sesso è un'attività umana innata e indispensabile. Per contro, gli atteggiamenti e le pratiche sessuali si imparano. Lo vediamo chiaramente attorno a noi oggi che milioni di donne e uomini hanno mutato radicalmente i loro atteggiamenti e i loro comportamenti sessuali nel breve spazio di una generazione. Lo vediamo anche negli esperimenti scientifici che ci mostrano come persino le scimmie, i cui comportamenti erano un tempo considerati puramente istintuali, devono apprendere l'atto sessuale, come nei famosi esperimenti condotti dagli psicologi Harry e Margaret Harlow su scimmie allevate in isolamento, prive dell'esperienza di essere coccolate, addirittura toccate, che non sapevano accoppiarsi. In breve, il sesso non viene da solo. Piuttosto, come illustrano le differenze abissali esistenti fra i simboli e le immagini sessuali della preistoria e della nostra epoca che abbiamo messo a confronto, il sesso è in ampia misura una costruzione sociale. Come scrive Jamaic Highwater in Myth and Sexuality, il modo in cui una società in una determinata epoca e luogo costruisce la sessualità, sia eterosessuale sia omosessuale, è inestricabilmente intrecciata ai suoi miti. Al pari di altri studiosi, Highwater non usa il termine mito nel suo senso comune, che è quello di falsità, ma al contrario nel significato di espressione mediante immagini e storie di quella che è creduta una verità sacra o immutabile. Ripetutamente dimostra che gli atteggiamenti e i comportamenti sessuali sono stati un'espressione altamente variabile dei diversi valori contenuti nei miti che ci spiegano la verità sul mondo e che perfino le immagini del corpo umano, da società a società e da periodo a periodo, sono trasformate dal flusso delle diverse visioni mitiche. Ovvero, come dice Michel Foucault, fluttuano secondo le periodiche riscritture della politica della verità. Per Pertanto, il concetto secondo cui il corpo umano, in quanto parte della natura, è in qualche modo inferiore alla mente e allo spirito, è già presente nella storia europea all'epoca della Grecia classica e dell'Impero romano, ed è in particolare espresso da alcuni dei filosofi chiamati stoici. Ma soltanto più tardi, con San Paolo e poi definitivamente con Sant'Agostino, comincia ad attecchire l'idea cristiana secondo cui il corpo umano, in particolare il corpo della donna, è corrotto e perfino demoniaco. Il veicolo mitico usato da Agostino per sostenere questo concetto era, come sottolinea la storica delle religioni Elaine Pagels, una reinterpretazione radicale della storia biblica di Adamo ed Eva e della caduta. Infatti, secondo Agostino, la cacciata dal paradiso, provocata presumibilmente dalla donna, irreversibilmente corruppe i due sessi e il corpo umano. Inoltre, secondo Agostino, i normali atti del sesso e della nascita sono per l'intera umanità e per sempre gli strumenti del castigo eterno che Dio infligge a tutte le donne e gli uomini per questo peccato originale. Agostino espresse la convinzione, poi accolta dalla Chiesa, che fino all'ora della morte tutti gli esseri umani nati su questa terra da un rapporto sessuale portano il peso della maledizione che colpì Adamo ed Eva per il peccato di disobbedienza. Come Agostino affermò nella Città di Dio, ogni bambino nato dall'unione sessuale di una donna e di un uomo nasce macchiato dal peccato, che si trasmette sessualmente attraverso il seme maschile. Scrisse infatti: Dio, infatti, autore della natura e non già di vizi, aveva fatto l'uomo retto, depravatosi di sua volontà e giustamente condannato, generò i figliuoli depravati e condannati. Tutti noi, invero, fummo in quell'uno. Quando tutti fummo quel solo che cadde nel peccato per mezzo della donna, fatta da lui prima del peccato. Non ancora c'era stata creata e assegnata particolarmente la forma nella quale ognuno poi vivrebbe, cioè non eravamo stati fatti nelle nostre persone, ma già esisteva la natura generativa, la quale ci avrebbe propagati e per la quale, già viziata del peccato, soggetta alla morte, giustamente condannata, l'uomo nascerebbe dall'uomo. In non diversa condizione. In particolare è questo peccato originale che condanna le donne a essere governate dagli uomini e gli uomini a loro volta a essere governati da re, imperatori e papi tirannici. Infatti, secondo Agostino, il peccato di Adamo ed Eva non soltanto ha condannato il sesso per l'eternità e ci ha negato l'immortalità, condannandoci tutti a morte. Esso fondamentalmente è in armonia con l'esigenza di predominio di rigide gerarchie mantenute con la paura e la forza, ci condannò per sempre a essere controllati da re, imperatori e papi per decreto divino preposti a governare. Come acutamente scrive Highwater, dopo Agostino, il corpo umano e la sessualità umana diventarono una forma di giusta punizione divina, un fardello carnale cui potevano sfuggire in parte solamente uomini autenticamente spirituali attraverso la sofferenza della carne. Quanto alle donne, in questo mito cristiano erano ancora più peccatrici degli uomini. Come si legge nel Malleus Maleficarum della Chiesa medievale, ogni stregoneria viene dalla lussuria carnale che nelle donne è insaziabile. Procreare senza piacere divenne di conseguenza un dovere cristiano, come un lavoro a giornata, osserva Highwater. E tutto ciò significava anche, come sostennero Agostino e successivi importanti capi della cristianità, come il vescovo Ambrogio, che avendo fatto pessimo uso della loro volontà, disobbedendo a Dio, gli esseri umani avevano per sempre perduto il diritto di autogovernarsi. Di conseguenza, un regime autoritario, e con esso la tirannia politica, era la necessità inevitabile della nostra natura universale, caduta. Ancora una volta, non per mera coincidenza, se visto nella prospettiva della teoria della trasformazione culturale, questo concetto dell'universale corruzione degli esseri umani per via del peccato di Adamo ed Eva, e quindi l'eterna necessità di un ferreo controllo politico-sociale, coincisero con la trasformazione del movimento cristiano, da setta perseguitata che predicava e praticava la non violenza, la pietà e la compassione, secondo gli insegnamenti di Gesù, a religione dello stesso imperatore romano. Come osserva Pages, nella persecuzione, prima contro i donatisti e poi contro i pelagiani, che denunciavano l'empia alleanza tra cattolici, cristiani e lo Stato romano, Agostino non esitò ad allearsi alle autorità imperiali. Addirittura, come pure osserva Pages, quest'uomo santificato dalla Chiesa arrivò a considerare indispensabile la forza militare. Ma ancora una volta desidero sottolineare che mentre il mito agostiniano di un'umanità sessualmente e politicamente condannata appartiene unicamente alla tradizione cristiana, non altrettanto può dirsi dell'idea secondo cui il regno della natura, compreso il corpo umano, è inferiore al regno della mente e dello spirito. In misura variabile, la si ritrova nelle mitologie religiose, sia orientali sia occidentali, che si prefiggono di imporre e mantenere rapporti politici e sessuali sul modello dominante e dominato. Per esempio, secondo il filosofo e riformatore religioso persiano Zoroastro, esiste una polarità cosmica fra il bene in quanto luce e il male in quanto oscurità, e di conseguenza la natura e la materia, l'oscuro e il terreno, sono intrinsecamente corrotte. Zoroastro visse in Persia, probabilmente fra il 628 e il 551 a.C. Sebbene venga da un'epoca e da un luogo diversi, la sua filosofia è assai simile a quella del cristiano Agostino. Zoroastro afferma che l'anima dell'uomo è prigioniera della materia e che la femmina, considerata senza anima, è la madre di tutti i demoni. E come nel concetto cristiano medievale, la donna è una fonte carnale di male, secondo questa ideologia medio orientale, molto più antica, l'oscurità cosmica e il male furono risvegliati da una creatura di sesso femminile, il cui nome in persiano si traduce con mestruazione. In molti miti religiosi induisti, le donne sono anche di rango inferiore rispetto agli uomini. Un esempio sorprendente, su cui tuttora si sorvola, è la ben nota storia di Vishnu, la suprema divinità indù, che si salvò dalla morte poiché al suo posto, nella sua culla, fu deliberatamente messa una bimba. Anche nella mitologia buddista, una delle tentazioni cui il Buddha dovette resistere per raggiungere l'illuminazione, seduto in meditazione ai piedi dell'albero della Bodhi, fu quello del desiderio e del piacere sessuale. Di conseguenza, in alcune sette buddiste i monaci non soltanto sono celibi, ma è loro vietato qualsiasi contatto con le donne, persino la stretta di mano. Sociale da un modello della partnership a un modello della dominanza, quale calamita sociale primaria che, come vedremo, portò con sé un cambiamento fondamentale nel modo in cui si costruivano socialmente il dolore e il piacere. Laddove si verificò, in India come in Irlanda, in Persia come in Giappone, in Europa come in Asia Minore, tipicamente questo spostamento comportò l'elevazione dell'uomo sulla donna e del cosiddetto spirituale o distaccato dal mondo su quanto è di questo mondo, compreso il nostro corpo. Fatto ancora più impressionante, finì con l'esigere il quasi totale capovolgimento e lo svilimento proprio di ciò che un tempo era venerato. La natura, il sesso, il piacere e soprattutto il potere sessuale di creare e sostenere la vita della donna.